Come sempre, anche questa è bello iniziare con un come sempre per qualcosa che è solo la seconda volta che sta andando in onda. Dovremmo essere in due, questa dovrebbe essere una conversazione. Io sono K e l'altro K dovrebbe essere qui, non fisicamente, ma a distanza a conversare con me. Ma l'altro K è latitante. L'altro K mi dice che c'è, mi dice che si parte. Mi dice che sì, bisogna assolutamente farlo e poi latita. E questa cosa qui in realtà mi riporta direttamente all'idea di partenza di questo piccolo progetto radiofonico estemporaneo. Idea di partenza che ha a che fare con la stanchezza, che ha a che fare prima con la stanchezza che con la distopia. E in questo senso la stanchezza fa sì che ci sia anche una certa forma di indisponibilità alla presenza, anche se è una presenza che può essere gradevole, che può essere divertente. Un'indisponibilità alla presenza che è data proprio da una sensazione di esaurimento delle energie. Sensazione che, come raccontavo in un primo estemporaneo collegamento radiofonico qualche giorno fa, probabilmente un collegamento radiofonico tra l'altro con un solo spettatore, ascoltatore. Segni di questo esaurimento, di questa estenuazione che sono condivisi, che sono diffusi un po' dappertutto in questo momento che stiamo vivendo. Non passa giorno che non legga testimonianze che sono di sfinimento, proprio di mancanza di energie, di mancanza di capacità e di forza per continuare a fare anche le semplici cose di tutti i giorni. E credo che in questo sicuramente abbia avuto una grandissima influenza il periodo che abbiamo vissuto, il periodo pandemico, che non è finito ancora, ci siamo ancora dentro, e che questo sicuramente ha dato una quasi, verrebbe veramente da dire una mazzata, ma più che una mazzata unica e forte, è stato più un logorio continuo, una tensione continua a cui il nostro sistema nervoso, il nostro cervello, il nostro corpo sono stati sottoposti nell'ultimo anno e mezzo, ormai quasi due. E sicuramente la stanchezza è un sintomo. E leggevo oggi nell'introduzione a un bellissimo libro di strisce, di comics, Dinosaur Therapy, che però questa stanchezza, questi fenomeni di disagio, di fatica erano sicuramente qualcosa che già c'era nelle nostre società, tra di noi, in noi stessi, nelle persone che conosciamo, ma è qualcosa che la pandemia ha accelerato in maniera quasi vertiginosa, quindi anche proprio da mettercelo davanti senza neanche riuscire bene a capire che cosa fosse questo disagio e come gestirlo. Solo che il fatto di averlo presente in maniera più chiara, perché lo sentiamo di più quotidianamente addosso a noi, non ha ancora, credo, almeno, non ha ancora fatto scattare il passaggio successivo, che oltre alla presa di coscienza, cerca anche di portarsi nella direzione della cura. Ecco, questo passaggio manca, probabilmente, e questo ragionamento, questo discorso era un po' all'origine, dell'idea di questa radiofonia estemporanea. Che abbiamo voluto chiamare distopiche stanchezze, oppure in altri momenti anche stanche distopie. La stanchezza ve l'ho un po' raccontata. Per quel che riguarda invece la parte distopica, beh, già il fatto di essere ancora dentro una pandemia che dura da quasi 2 anni sicuramente fa parte delle nostre distopie realizzate, probabilmente. Ci sono stati da sempre la cultura umana ragiona anche su questi temi, ma chiaramente forse nessuno di noi si sarebbe mai aspettato di ritrovarsi dentro una pandemia, anche se già qualche anno fa si potevano leggere anche in forma divulgativa, quindi non solo per gli specialisti, delle considerazioni abbastanza preoccupanti sul fatto che una grande pandemia sarebbe stata in arrivo e sarebbe arrivata molto presto. E nonostante questo, nonostante queste letture, anche già di 6, 7, 8 anni fa, quando poi arriva non c'è mai la preparazione, per cui ti trovi davanti a qualcosa e veramente non sai come viverlo. E il conto psicologico di tutto questo, oltre che quello sociale, umano e di salute, eccetera, il conto psicologico di questo probabilmente sta iniziando a farsi sentire solo adesso, ma dobbiamo ancora capire come poi si evolverà. Ma per tornare alla distopia, negli ultimi anni le narrazioni distopiche, le narrazioni apocalittiche, dagli zombie alle dittature più o meno future, a racconti strani, irrealtà o presenze anche soprannaturali, comunque con sempre questa sensazione di respiro corto, di fine di mondo, si sono susseguite e hanno costruito un po' anche il nostro immaginario, hanno da un lato anche calcato e spinto sulle nostre paure, quindi anche per tenerci incollati allo schermo, e dall'altro con la presenza di personaggi che possono essere eroi, che riescono a sopravvivere, a trovare una soluzione, una via di uscita e a agire all'interno di queste distopie finzionali, in realtà deleghiamo a loro anche forse il nostro agire, quindi spostiamo un po' più lontano da noi la distopia che in realtà stiamo vivendo, senza parlare del problema climatico che è un po', nonostante ci sia sui titoli dei giornali, rimane un po' come l'elefante nella stanza, per cui è una cosa talmente grossa, troppo grossa da poterne davvero parlare, da poter davvero capire la portata di questo cambiamento, anche se sempre più persone lo stanno vivendo sulla propria pelle a diverse latitudini. Ecco, in questo senso, distopiche stanchezze, credo questo abbinamento tra la fatica, la stanchezza, il non riuscire più a allinearsi a un sistema, a un ritmo che forse non ci corrisponde più, e la distopia che ci gira intorno, che fa un po' da ambiance, da sfondo mentale per le nostre giornate. Ecco, qui il gioco voleva essere proprio costruire una conversazione, una riflessione a due in origini, K e K, come vi dicevo all'inizio, o più voci, quindi anche a seconda di chi ascolta. Per adesso è veramente un esperimento piccolissimo, limitato, non pubblicizzato, e quindi se ci siamo, siamo comunque molto pochi, per cercare di tirare fuori un po' queste paure, ma anche queste difficoltà, queste stanchezze, anche per potersi dire serenamente, non guardandosi in faccia, quindi anche fuori dall'obbligo di visualizzazione, di videoconferenza, perché io in questo momento sono comunque dietro a un computer, per dirsi con libertà e con quel po' di leggerezza che si può, che questa stanchezza forse, ecco, un po' ci ha anche stancato, e quindi magari già condividere certi stati d'animo che ci portiamo appresso per giorni e giorni e mesi, durante il nostro lavoro quotidiano, durante il nostro agire quotidiano. Ecco, per metterli un po' in comune, per farli in una conversazione, per quanto radiofonica, che rimanga comunque in una dimensione intima. Tra l'altro, stavo notando che nella mia console della diretta il microfono mi sembra uscire solamente come mono, quindi adesso metto qualcosina di musicale e intanto cerco di verificare quali sono i problemi dell'uscita del mio microfono. Mainline to the UE. Why don't you sing with an English accent? Well, I guess it's too late to change it now. In the rural American town, fairground, I go around and I go around. It's a great wide gulf between intentions and what ground met me. I check my phone, make the sound like theme from failure, performed for just you, like the new road built out of black country ground. I have learned so little from all I lost in 2018. I think she's still waiting there for us, somewhere underneath what we built to keep the waters clean. It's a one-size-fits-all hardcore cyber fetish, early naughty zine. She sells matcha shots to pay for printing costs in a PR team. She's recently enlightened and for some reason that phases me. Won't give up, too soft to touch. And how hard could it really be? What a time to be alive, cantavano i Black Country New Road. Sì, forse è vero, sono anche tempi interessanti, nonostante tutto, nonostante le difficoltà e gli scenari distopico-apocalittici di cui parlavo prima. Nel frattempo il microfono continua a darmi solamente l'indicazione di un segnale su un solo canale, eppure tutto sembra collegato perfettamente, ma i problemi tecnici sono sempre qualcosa che è all'ordine del giorno da queste parti, con connessioni instabili, con i cavi sotto la strada che sono rosicchiati dai topi e fanno saltare le linee, ma anche con instabilità linuxiane ogni tanto che fanno sì che qualcosa incespichi a livello tecnologico. Ed è strano e interessante allo stesso tempo pensare come anche la tecnologia in qualche modo sia vittima dei nostri stessi ingarbugliamenti umani, e che quindi, non tanto per buttarla sulla filosofia, ma stavo correggendo un articolo che ho scritto un po' di tempo fa, e c'era questo ragionamento di un ricercatore che diceva che come noi non siamo mai nel pieno controllo della lingua che usiamo per parlare, per scrivere, quindi non abbiamo mai il pieno controllo della lingua in cui scriviamo, la stessa cosa avviene anche per le macchine, per cui quello che si propaga quello che succede all'interno di un computer, di un dispositivo, sia anche uno smartphone, un tablet o altro, è quello che succede nella relazione tra le macchine, quindi come queste macchine si parlano, ecco, anche quello, nonostante sia codice, quindi si pensi che sia qualcosa che a un dato comando fa rispondere una data reazione, esecuzione, e invece probabilmente anche nelle interazioni sui network, sulle reti informatiche, c'è qualcosa di cui forse nessuno ha più il pieno controllo. Questo da un lato perché gli algoritmi sono diventati così complicati, che difficilmente sono comprensibili a un umano, anzi quasi impossibilmente sono comprensibili a un umano. E però allo stesso tempo possono sfuggire anche alla macchina, soprattutto nel momento in cui due macchine si parlano tra di loro senza altra interazione, appunto, che il codice. E quindi è interessante pensare che tutti i bug, le latenze, gli inciampi che accadono anche nella tecnologia siano il frutto di questo tipo di interazione. Che si fa complessa, che si fa difficile. Ed è un modo forse anche, visto che, tanto per rientrare sempre all'interno dello scenario distopico, ma anche di quello della stanchezza, perché in fondo passiamo sempre più tempo davanti a degli schermi. Dicevo, può essere anche un punto di aggancio e di riflessione per ragionare su come l'uomo e la macchina si stiano effettivamente davvero avvicinando. E quindi, non so, mi viene quasi da pensare che il guardare il computer possa diventare una sorta di guardare allo specchio e quindi di trovare certi malfunzionamenti, certi glitch anche nella macchina e di rimando riconoscerli in se stessi e rivederli nella macchina o viceversa, vederli nella macchina e riconoscerli in se stessi. Una delle cose che mi sono sempre chiesto io davanti al computer, soprattutto davanti a quei computer vecchi che ci mettono un sacco di tempo per far girare i programmi, e quindi ti capita a volte che pensi, magari ti è sembrato che la finestra sia già aperta e stai già scrivendo, magari una mail oppure un testo, un file di testo, e in realtà il programma non è ancora aperto e tu stai scrivendo nel vuoto, però è un vuoto che non è un vuoto perché tu di fatto stai scrivendo su una tastiera che è collegata a un processore, che è collegata a un hard disk, che è collegata a uno schermo. E però queste tue parole non si visualizzano da nessuna parte. Ecco, una delle cose che io mi sono sempre chiesto e che continuo a chiedermi in realtà è dove vanno a finire tutte queste parole che noi digitiamo sulla tastiera ma che non appaiono sullo schermo. A volte con i telefoni succede piuttosto che per un attimo magari queste lettere, queste parole non appaiono e poi esplodano all'improvviso tutte ingarbugliate, costruendo delle parole senza senso. Quasi come anche in questo caso, se la macchina cercasse di interagire con il nostro linguaggio, con le nostre conversazioni, cercando quasi di dirci: ma la tua conversazione sta passando attraverso di me, quindi anch'io voglio prenderne parte, voglio anch'io metterci qualcosa di mio. E il metterci qualcosa di suo, del dispositivo, può essere proprio questo, no? Accrocchiare, ingarbugliare a caso le lettere dei nostri messaggi. Sicuramente c'è anche l'elemento della correzione automatica. E anche in questo caso è interessante capire i meccanismi di come funziona questa correzione automatica. Ci sono tanti giochi che si vedono passare quasi quotidianamente, almeno su Twitter, e sono quelli di inserire due o tre parole e poi far continuare scegliendo tra le opzioni che ti dà il correttore, no? L'aiuto alla scrittura. Spesso vengono fuori delle cose interessanti. Io ammetto che faccio sempre, ogni volta che me ne trovo davanti uno su Twitter, faccio sempre questo gioco qui, ma poi non invio mai il tweet perché mi serve più che altro. A parte che ormai Twitter lo uso pochissimo, mi serve più che altro come una sorta di specchio, ecco, per tornare al concetto di prima, mi serve come una sorta di specchio per riflettere quello che il telefono riflette di me. Quindi in questo caso è quasi un labirinto di specchi in cui la macchina, io cerco di capire se la macchina sta cercando di dirmi qualcosa rispetto a quello che io di solito dico con e attraverso di lei. E alla fine è interessante, sono giochi interessanti, ci si può perdere parecchio dentro. A al di là del sorriso dei primi minuti e della buffa condivisione, anche che poi una cosa che si fa ovviamente è andare a leggere tutte le persone che hanno condiviso questi tweet di scrittura pseudo-automatica per vedere quali sono i suggerimenti dei dizionari degli altri e perché i suggerimenti dei dizionari degli altri sono così diversi da quelli che vengono a noi. Questa cosa credo sia buffa, se non altro, divertente, ma c'è sicuramente un aspetto che è quello poi che caratterizza la curiosità di andare a vedere cosa c'è dietro lo schermo, cosa sta succedendo nel codice, come sta funzionando, cosa sta facendo la macchina che interagisce con noi. E secondo me questa frontiera, questo punto di contatto che è lo schermo, il touchscreen dei nostri telefoni, si assottiglierà sempre di più e non tanto da un punto di vista di spessore concreto dell'oggetto che teniamo in mano, quanto di zona di contatto, di zona di frontiera che diventa sempre più indefinita, come sempre più indefinito è lo spazio, lo scarto tra pubblico e privato nell'epoca del digitale o post-digitale ormai, come qualcuno dice. Questo spazio, questo punto di contatto sarà sempre più sottile e a un certo punto magari saremo noi l'alice di là dallo specchio, quindi magari le nostre dita attraverseranno questo schermo e le vedremo dentro lo schermo mentre lo stiamo toccando. Non so, sono piccoli percorsi che in qualche modo fanno cortocircuitare un po' la nostra relazione con la tecnologia, ma allo stesso tempo ci fanno, o almeno mi fanno, un sacco di domande sul futuro e su come questa relazione evolverà. E devo essere sincero, è qualcosa che mi vede estremamente curioso. E tra l'altro prima stavo cercando, che c'entra e non c'entra, ma stavo pensando al fatto che questa sorta di esperimento radiofonico estemporaneo doveva essere soprattutto una conversazione. E quindi ero andato a cercare l'etimologia di conversazione e adesso addirittura non mi sto neanche più ricordando perché avevo iniziato questo discorso, il che, ecco, probabilmente in questo momento il mio computer, la mia macchina mi sta guardando e mi dicendo, vedi che c'è un glitch là, c'è un bug, che nella tua testa c'è qualcosa che sta saltando, c'è una connessione, una sinapsi che non ha funzionato e non si può neanche bene spiegare perché. Però insomma, l'idea è che io non so, cioè anzi so almeno di una persona che in questo momento sta ascoltando queste distopiche stanchezze, ma voi che state ascoltando sapete che potete interagire con me se avete i miei contatti. Difficilmente ci sono persone che non hanno i miei contatti che mi stanno ascoltando, perché come dicevo, questa è una conversazione che rimane sostanzialmente privata, anche se allargata, e magari le prossime volte che avrò tempo e una connessione sufficientemente stabile, magari butterò fuori anche un link pubblico per cercare di capire se arriva qualcun altro ad ascoltare. E tra l'altro ho creato un profilo su un social, però di quelli che la gente non usa, sostanzialmente, quelli dove siamo in pochissimi e che scappiamo dai social più grossi. E ho creato un piccolo profilo su Mastodon. L'ho creato su Mastodon, su un'istanza italiana che si chiama nebbia.fail, perché ho pensato che come nome di dominio era perfetto, perché per queste conversazioni così, un po' tra l'esistenziale, il distopico e lo stanco, un incrocio tra nebbia e fallimento era probabilmente il luogo digitale migliore per trovare uno spaziettino per diffondere. Ecco, magari la prossima volta metterò un link anche lì e magari allarghiamo un pochino il numero delle persone che ci sta ascoltando. Nel frattempo saluto Morloi che sta dicendo che mi sta ascoltando e che vado solo a sinistra. Sì, lo vedo anch'io dalla mia console, ma non riesco a capire dove sia il problema, per tornare sempre ai bug, ai piccoli bug tecnologici. Allora, adesso cosa faccio? Metto su un altro pezzo e cerco di guardare e di capire da dove viene il problema. Allora, cerchiamo di trovare una soluzione. Non so, no, sono sempre monocanale. Ho cambiato spinotto, come si direbbe. Sono sempre su un canale solo. E vabbè, cercheremo di farcene una ragione per questa sera, perché davvero non sto capendo. Ho anche una piccola consulenza tecnica online in diretta per andare a cercare di capire dove può essere il problema, ma per adesso non si è trovata una soluzione, quindi andiamo avanti così ancora per un po', poi perché insomma non so, di anche una certa ora io. Ecco, mi dicono che adesso vado a destra, quindi c'è qualche impostazione che forse. No, però così non cambia niente. Scusate, sono piccole prove tecniche per cercare di capire. Per cercare di capire dove stia il problema, ma niente, come. Beh, se non altro mi sono spostato da sinistra a destra, quindi cioè, creo un certo così, effetto quasi surround, però. Successivo, non contemporaneo, il che è abbastanza buffo, ma soprattutto credo abbastanza inutile. Però sono così, un po' questi piccoli disfunzionamenti della tecnica. E questo appunto doveva essere una conversazione, è un monologo, però insomma cerchiamo di farcelo andare bene anche così. E prima stavo ragionando su questi ingarbugliamenti tra la macchina e l'essere umano. E sono ingarbugliamenti che mi affascinano un sacco, ma sono, diciamo, solo un piccolo aspetto delle possibili esplorazioni, anzi, sono solo un piccolo aspetto delle esplorazioni del possibile più che delle possibili esplorazioni, perché l'esplorazione del possibile è qualcosa di forse più interessante che la possibile esplorazione. E quindi potrebbe essere politicamente significativo, mi fa riflettere Morroi sullo spostamento del canale da sinistra a destra. Effettivamente potrebbe, se non altro, potrebbe essere una chiara interpretazione dello spirito dei tempi, ecco, forse spirito dei tempi che non ci fa stare particolarmente tranquilli, ma insomma, la situazione è quella che è. Non mi metterò certo adesso a fare dei ragionamenti politici, perché non credo sia il momento opportuno, anzi, soprattutto perché parlando di esplorazioni del possibile, mi è venuto in mente che nelle ultime settimane, in due libri diversi che sto leggendo, mi sono ritrovato tra le pagine un'esplorazione della quarta dimensione. Allora, l'esplorazione della quarta dimensione è chiaramente qualcosa che, anche se resa a parole, rimane al di là, credo, della nostra capacità di comprensione reale, di visualizzazione reale. Però è interessante come questa esplorazione, come questa quarta dimensione viene cercata, viene portata, provata a essere portata in parole. I libri non potrebbero essere più distanti, perché uno è la trilogia dello scrittore di fantascienza cinese Liu Cixin, che sicuramente non pronuncerò bene, e l'altro è Solenoide di Mircea Cartarescu, un autore romeno molto importante, di cui Solenoide è il romanzo cult, che è stato tradotto in italiano quest'anno. Sono appunto due storie completamente diverse, eppure a un certo punto entrambe parlano di quarta dimensione. Allora, nella fantascienza e nell'esplorazione dello spazio uno se lo potrebbe aspettare anche un po' più facilmente, no? Invece in questa sorta di. È una sorta di autobiografia sfondata, però, in cui l'universo entra ed esce, gioca col protagonista che si autonarra in qualche modo, che è il libro di Cartarescu. C'è questa. E lì non ce lo si aspetterebbe di trovare uno sconfinamento nella quarta dimensione, eppure c'è. E la cosa interessante è che lo sconfinamento in questa quarta dimensione, in entrambi i testi, è descritto sostanzialmente allo stesso modo. Ora, io non ho avuto il tempo di indagare i momenti di scrittura di questi due libri e quindi chi può avere letto chi eventualmente, anche se mi sembrerebbe abbastanza remota come possibilità. Però è interessante e per me è chiaramente una coincidenza inaspettata di ritrovarmi davanti a due testi appunto completamente diversi che raccontano la quarta dimensione e che la raccontano allo stesso modo. E uno dei dettagli del racconto di questa quarta dimensione che, e anche lì le parole sono limitate nella possibilità di descriverlo chiaramente, però uno dei dettagli di questa quarta dimensione, di questo racconto della quarta dimensione, è che dalla quarta dimensione si vedono gli organi interni, cioè degli esseri viventi, cioè se io ti vedo nella quarta dimensione vedo anche dentro di te, per cui devo stare attento a muovermi perché altrimenti potrei trafiggerti il fegato con una manata. E questa cosa qui è interessante e difficilmente, per me è anche molto difficile da immaginare nel reale, nel senso si tratta di perché chiaramente non parlano di trasparenze, che renderebbe tutto molto più facile, il gioco letterario crollerebbe probabilmente anche subito. Per cui si vede il corpo, ma si vede l'interno del corpo e la percezione delle distanze è completamente sballata, chiaramente, perché inserendo una dimensione in più cambia tutto, la percezione della distanza, la percezione del peso, la percezione delle percezioni, quindi proprio il come si percepiscono le cose. È davvero questa immagine dei corpi che sono accessibili come tutt'uno, ma allo stesso tempo anche come insieme delle loro componenti che sono visibili, quasi a dire che ah, guarda, c'è lì un problemino al tac, entro, ti faccio una piccola operazione, ti sistemo la cosa direttamente dalla quarta dimensione, quindi anche una prospettiva chirurgica quasi. Non so, si tende a cercare correlazioni tra le cose che accadono, quindi si cercano nessi, no? È una tendenza umana molto forte. Ecco, forse in questo ci differenziamo un pochino dalle macchine, perché noi a senso cerchiamo di costruire dei nessi di significato tra cose che forse solo per noi sono correlate, mentre in realtà sono distanti. E però il fatto di essermi trovato a distanza davvero di pochi giorni a esplorare in due modi lontani ma estremamente simili la quarta dimensione è stata per me una coincidenza, non coincidenza, quelle cose che ti lasciano un piccolo segno, una piccola scintilla nella testa e ti fanno dire aspetta, però qui forse, non dico l'universo sta cercando di dirti qualcosa, magari le macchine che gestiscono l'universo stanno cercando di dirmi qualcosa, un po' come, se non ricordo male, quando ci sono le cose che iniziano a non funzionare bene in The Truman Show, non so neanche perché mi sia venuto in mente questo film, però insomma, sono i piccoli segnali che tu vedi, dei piccoli cedimenti nel reale, delle piccole crepe nel reale, e inizi a pensare però aspetta, forse io percepisco queste cose qui, non dico il sistema, l'universo eccetera sta cercando di dirmi qualcosa, ma c'è una forma di disvelamento in atto, che è qualcosa che ha a che fare anche un po' forse con una lettura paranoica della realtà. Edward Snowden, una delle sue ultime newsletter, parlava di apofenia, il termine lui ovviamente lo usava in inglese, ma credo che l'accento sia lo stesso anche in italiano, quindi questa tendenza a trovare, tendenza paranoide a trovare correlazioni, a collegare tutto ciò che anche non è collegato, ma secondo uno schema che però è quasi preacquisito, quindi c'hai un'idea e tu ricostruisci la tua percezione della realtà seguendo questa idea, a prescindere dal fatto che questa idea possa avere un senso o un fondamento. Snowden ne parlava a proposito di complottismo, cospirazione, eccetera. Però è un anche lì è un confine che può essere sottile. Ricordo che Philip Dick scriveva: il problema non è se siamo paranoici. Il problema è se siamo abbastanza paranoici. Perché è chiaro che da un certo punto di vista, da un certo punto di vista di analisi della realtà, pizzico di paranoia, anche un po' più di un pizzico di paranoia, può essere molto utile per cercare davvero di capire quello che succede, senza limitarsi alle superfici, senza limitarsi alla percezione mediatica, alla percezione immediata. È bello che mediatica e immediata nella nostra società ormai hanno quasi lo stesso significato, eppure etimologicamente stanno abbastanza lontane. Esatto, come mi suggerisce Morlò, è il mondo a misura della propria paranoia. E credo che anche su questo, per riallacciarci anche ai discorsi che facevamo all'inizio, ci sia... l'ultimo anno ci abbia dato sotto pesante rispetto alla percezione del mondo a misura della propria paranoia. Quindi non solo con tutte le teorie complottistiche assurde e più impensabili, ma anche col fatto che abbiamo avuto una spinta all'isolamento fortissima. E l'isolamento, quindi la mancanza di relazione sociale, la mancanza di confronto, la mancanza di dialogo, anche proprio la mancanza semplicemente di presenza, di dialogo, fa sì che poi la testa tenda a partire in una sua direzione. E se si lancia in una direzione, tende a seguirla, tende a continuare a prendere solamente, o spesso tende a prendere solo quello che in quella direzione dà conferme, che è un po' come si chiama in italiano, non mi viene in italiano, il down the rabbit hole, quindi l'inseguire nella tana del bianconiglio, che vuol dire che è come l'algoritmo di YouTube, che man mano che guardi certi video te ne propone altri che sono magari un po' più estremi, e poi altri ancora, fino a che tu non finisci dentro a una sorta di tunnel in cui la tua percezione è fatta esclusivamente di queste cose qua, per cui c'è anche una forma di scollamento dalla realtà. Però per tornare alle crepe nel reale, quindi alle aperture, ai glitch nella nostra percezione del mondo, ci sono anche interessanti teorie che dicono che il mondo non è altro che una simulazione, e quindi in realtà noi siamo parte di questa simulazione. Che cosa significa questo? Le implicazioni possono essere tante, ma come dire, se il mondo è una simulazione, intanto è una simulazione di chi? È costruita come? E allora a questo punto si potrebbe tornare al discorso delle macchine, sono delle macchine che stanno simulando, e allora come dire, se sono delle macchine che stiamo simulando, sì, l'abbiamo già visto in Matrix, ma forse qui c'è qualcosa di diverso in funzione. Però ci sono sempre più ricercatori scienziati che sostengono, quantomeno è chiaro che non si possono almeno fino a questo momento avere prove, sostengono che l'ipotesi che tutto quello che abbiamo intorno sia una simulazione è un'ipotesi da tenere in considerazione. Ecco, a proposito della tana del bianconiglio, Morlòi mi dice che TikTok è la tana del bianconiglio 4.0, dice: non ho mai visto un algoritmo così diabolicamente perverso. Esatto, sono questi tipi di dinamiche, e si ritorna comunque all'algoritmo, quindi si ritorna anche alla macchina, alla relazione dell'uomo con la macchina, e anche a quello scoglio bizzarro chiamato libero arbitrio, che si mette in mezzo a queste cose qui, ma come? Mi ricordo un'intervista che credo fosse Rai Letteratura aveva fatto tanti anni fa a Ermanno Cavazzoni, lo scrittore, e l'intervistatrice gli chiedeva, come è normale di solito chiedere a uno scrittore, soprattutto credo fosse stessero costruendo un profilo dello scrittore, quindi un'intervista diciamo abbastanza generale sulla sua opera, sulla sua attività, e l'intervistatrice chiede allo scrittore: come ha deciso, come ha scelto di mettersi a scrivere? E lui ci pensa un attimo, respira, e poi dice: ma io non ho scelto, io non ho deciso nulla. Dice: noi nella vita non decidiamo nulla, non scegliamo nulla, noi nasciamo su un piano inclinato e scivoliamo giù. E poi sì, ci attacchiamo alle cose che incrociamo mentre stiamo scivolando giù. Magari qui troviamo un amico, qui troviamo un lavoro, qui. Però dice, in realtà noi nella vita non scegliamo mai nulla. Ed è una frase che mi ha sempre colpito perché io credo che ci sia un bel fondo di verità nel suo ragionamento, e credo che forse spesso sopravvalutiamo la nostra capacità di influenzare il reale. Anche se allo stesso tempo quel margine che ci permette quantomeno di starcene non tanto contenti, ma almeno consapevoli che invece qualcosa possiamo farlo, ecco, forse anche quel margine è importante. Detto questo, io sto tenendo d'occhio sia il quadratino colorato che mi dice lo stato della connessione. Ieri ho avuto una bruttissima esperienza con la connessione internet saltata durante una diretta, ma adesso sembra che tenga un pochino meglio, e allo stesso tempo sto guardando anche l'orario, quindi da quanto tempo sto andando in diretta. Potrebbe essere quasi arrivato anche il momento di avviarci verso la buonanotte. Intanto io volevo cercare una canzone da far ascoltare dopo e vediamo se ci riescono. E per strada si sentono parecchi rumori, e dopo tutto è un venerdì sera, ci sono persone che schiamazzano come sempre qui in giro. Vediamo se riesco davvero a trovare proprio la canzone che voglio. Scusatemi, ma qui è tutto live, è tutto in solitaria, è tutto che non trovo la canzone che voglio, quindi la userò in un'altra, la metterò in un'altra, da un altro disco, ma la canzone è sempre la stessa, ma la metterò in un'altra versione. Sempre a destra, ma tiene. Allora, la connessione tiene, quindi questa è una cosa buona, che sia sempre solo da un lato. Probabilmente chi mi sta ascoltando magari con un dispositivo più piccolino, un cellulare o qualcosa, non si accorge di questa differenza. Invece chi magari mi sta ascoltando in cuffia o con delle casse si è reso conto che effettivamente c'è qualcosa di strano. Tra l'altro è buffo perché non mi ero neanche reso conto che quando prima provavo i microfoni che ci fosse. Vabbè, insomma, come sempre sono le cose buffe della diretta, però questa volta, a differenza del mio primo esperimento estemporaneo di queste distopiche stanchezze, questa volta ho registrato, quindi magari raddoppio la traccia vocale in modo che esca da tutte e due le casse, e poi posso eventualmente anche renderlo disponibile come podcast. Anche se devo ancora capire dove e come, ma insomma, nel weekend un pochino di tempo su questo, per questo ce lo possiamo ritagliare. Allora, se io qui non mi confondo con le finestre che ho davanti, credo che sia arrivato il momento di darvi la buonanotte, così facciamo con la canzone, col pezzo che metterò alla fine, facciamo un'ora più o meno tonda, forse anche qualche minuto in più. Grazie per avermi, visto che sono da solo, per avermi seguito fino a qua. Grazie per essere stati presenti a questo piccolo esperimento radiofonico estemporaneo. La prossima volta spero che potrete sentire anche la voce del mio socio di radiofonia che prima o poi secondo me parteciperà, riusciremo a farlo partecipare. Gli avevo chiesto eventualmente di mandarmi un vocale da poter passare come una sorta di collegamento e di diretta, forse ecco dalla quarta dimensione, ma purtroppo non l'ho ricevuto, e quindi niente, anche per questo primo esperimento con un po' più di ascoltatori e un po' più strutturato, forse addirittura, sono sempre stato io. E ci vediamo e ci sentiamo soprattutto alla prossima volta. sospeso tra azzurri spazi, geni di lampe desolate. Tu quietami pensieri, le mani in questa veglia, pacificami il cuore. Salzano sotto cieli spenti i canti di chi è nato alla terra ora, di volontà focose, speranze, e da energie costrette si muove la danza, danza, danza, danza. Festa stanotte di misere tribù sparse in solitari, che raro di vedere insieme ancora, e s'alzano i canti e si muove la danza, e s'alzano i canti e si muove la danza. Muoiono i preti rinsecchiati e vecchi, e muoiono i pastori senza amante, spaventati guerrieri persi alla meta, i viaggiatori, la saggezza impazzita, insa l'intelligenza, ragione nel torto, conscia l'ingenuità, ma non tacciono i canti e si muove la danza. Pietami i pensieri e il canto in questa veglia, pacificami il cuore.